con Daniele Parisi e Claudio Morici, due delle anime di Sgombro, varietà tragicomico, per l'appuntamento numero 27 a Roma, Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 31 maggio 2019. Ben trovati. Eccoci, ciao, eccoci, ciao, ciao. Allora, alternatevi. Cominciamo raccontando per chi non conoscesse la formula di Sgombro. Allora, Sgombro, diciamo una cosa fondamentale, Sgombro è un varietà comico che noi ormai portiamo avanti da 3 anni al Nuovo Cinema Palazzo e dove si alternano degli artisti che insomma portano dei piccoli estratti dal proprio repertorio, una cosa come tipo 5-10 minuti, si alternano sul palco e questa cosa darà il via a uno spettacolo fortemente comico, giusto? Sì, lo portano proprio sul palco, guardano i fogli, poi la gente se li legge col comodo a casa. Esattamente. Diciamo, li portano. Sì, porta, certo. C'è una sedia, diventa una portiamo sulla sedia sul sedia. palco, Esatto, esattamente. viene poi con calma, Con calma a casa, su, no, calma, poi si legge la scherziamo, scherziamo. Quindi è un varietà comico dove la gente in più o meno un'ora e mezza si vede davanti 8-9 artisti e 8-9 poetiche diverse, perché insomma ognuno di noi ha un'anima diversa e una concezione anche della comicità molto personale. C'è anche la musica e c'è anche un presentatore. C'è anche un presentatore che Sì, Ciantalarico, calabrese più alto di Italia ad oggi. credo che sia 1,90 addirittura. Forse di più di 1,90, è un gigante, forse viene da Gianni Liverani di Reggio Calabria, 1,94. Se la stanno consentendo, esatto. E ogni tanto vengono anche degli ospiti musicali, in questo caso questa volta viene Filippo Gatti, che insomma io ero anche un estimatore di Filippo Gatti da ragazzino, che è l'ex cantante degli Electro Joyce, e verrà nell'ultimo appuntamento, si fa un grande regalo, insomma viene, porterà, suonerà insomma le canzoni del suo repertorio, questo per noi è un grande onore, insomma. Sì, mi ero preoccupato perché hai detto eri un estimatore, pensavo adesso No, no, no. non lo eri più. No, assolutamente, lo sono ancora di più. No, no, lo ero nel senso, cioè, da ragazzino, quindi per me è una cosa molto strana, no? Tu sei un adolescente che suona col suo gruppo rock e diciamo, vedere gli Electro Joyce per me era il motivo per cui io suonavo, insomma, per me loro rappresentavano l'indie, no? Da ragazzino, e quindi noi copiavamo gli Electro Joyce, quindi vedere Filippo Gatti che viene a Sgombro per me è straordinario, insomma. Gli ospiti di questa puntata? Come diceva Filippo Gatti, poi c'è Rapone, che è uno stand-up comedian che noi apprezziamo tantissimo e l'abbiamo invitato proprio perché insomma ci fa tanto tanto ridere. E poi c'è la solita brigata che siamo noi, insomma Bartolo Botta, Gioia Salvatori, No, io non ci sono, sono Arezzo, e poi dopo ce l'ha. Claudio Merici, c'è stato stavolta. Claudio Morici questa volta non c'è, ma insomma ci sarà con lo spirito come sempre. Davide Grillo, io, Daniele Parisi, Gian Salvatore l'abbiamo detta, sì, eccoci qua, c'è Eccoci qua. Giovanni Bartolombotto, esatto. Oh, poi da un po' di tempo a questa parte, anzi diverso tempo a questa parte, c'è anche un bellissimo manifesto di pubblicità per Sgombro, con tanti animali. Eh sì, noi questo dobbiamo ringraziare, vai. L'art director delle locandine, Maurizio Ceccato, probabilmente il grafico editoriale più importante, tra i tre più bravi e importanti d'Italia, ecco, è stato il grafico, l'art director della Palazzi Editore, ha fatto un sacco di Castelvecchi all'inizio, insomma, fa le copertine dell'Espresso e fa anche le locandine di Sgombro qua. Capito? Cioè, nel senso che no, voglio dire, no? È È un artista, diciamo, che fa con gli un artista che sta con gli artisti, diciamo. Un'altra curiosità è come si sta evolvendo, voi che ci state dentro, siamo arrivati al 27° appuntamento e Sgombro, pensando un po' agli inizi. 27, vedi gli anni come passano, Federico, cioè, stiamo invecchiando, direbbe qualcuno, così stiamo facendo vecchi, eh? Ci saranno delle sorprese per l'anno Ci prossimo. saranno delle sorprese, ci Ah, saranno delle delle sorprese, novità. delle novità. Adesso non diciamo niente perché, po' per scaramanzia e un po' perché, sai, purtroppo finché non firmi, come si suol dire, no? Insomma, finché non... E quindi, insomma, ci stiamo muovendo, stiamo vedendo delle cose, insomma, Sgombro è in evoluzione, in crescita, ecco, diciamo così. E tra l'altro in una struttura che è nell'occhio del ciclone in questo periodo, giusto? Ma noi siamo, come diceva ironicamente l'altro giorno Giovan Bartolo, mi sembra, o non ricordo chi, cioè noi siamo in questo momento siamo molto vicini a dei terroristi culturali, cioè noi piazziamo delle bombe di cultura qua e là, e lo stiamo facendo anche al Cinema Palazzo. E poi piazziamo queste bombe di cultura che poi esplodono e sgombrano il posto. Esatto. Noi siamo, possiamo fare siamo fatti a posto, esatto. Lavoriamo per la Digos. Botta il capo. Botta, cioè, infatti botta, no? Botta. Dove è stato Botta dal 2005 al 2006? Esatto, è da capire dove questo. Dove è stato? Il viaggio che ha fatto in Russia. Esatto, hanno chiuso una gelateria a Pignedo, perché lui andava sempre a mangiare gelato lì, noi siamo funghi di quella roba, no, quindi sì, sappiamo quello che succede, ma noi andiamo avanti e portiamo dietro queste bombe di cultura, siamo pieni di tritolo culturale. E allora ricordiamo l'appuntamento, il nuovo appuntamento, quello numero 27 con Sgombro, varietà tragicomico a Roma, Nuovo Cinema Palazzo, venerdì 31 maggio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Daniele Parisi e Claudio Morici. Un abbraccio, grazie, in bocca al lupo e a presto. Evviva il lupo! Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.